Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Che cos'è il jazz? Amico, se lo devi chiedere, allora vuol dire che non lo saprai mai. Louis Armstrong ha ragione. Il jazz non è qualcosa che possa essere rinchiuso in una spiegazione. È un sentimento, un flusso, un coacervo di sensazioni uditive ed emotive, fisiche e insieme impalpabili. Una semplice progressione di note su un pentagramma non è in grado di racchiudere il suo sconfinato senso. Un significato che va ben al di là della grammatica di una composizione o delle leggi fisiche che regolano il flusso delle onde sonore nel tragitto che compiono dagli strumenti musicali fino all'orecchio umano. Il jazz travalica la vibrazione delle corde di un contrabbasso, la meccanica dei tasti di una tromba o di un sassofono, per perdersi in una zona più eterea e sfuggente, fatta di poesia, bellezza, di gioia sottile mescolata al vago mistero di un'eterna scoperta. Sì, perché il jazz, in fondo, è una sorta di entità filosofica inconoscibile. Spesso non segue una partitura, ma progredisce sull'onda del sentimento, della fantasia, dell'ispirazione momentanea. Non vi è modo di afferrarlo del tutto, ma resterà eternamente sfuggente. Prossimo! Che sai fare? Suono la tromba. Li abbiamo già i suonatori a bordo. Via! Prossimo! Cos'era? Non lo so. Quando non sai cos'è, allora è jazz! Jazz! Il trombettista che si candida come musicista di bordo sulla nave del celebre film di Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull'oceano, non sa nemmeno dare un nome all'assolo che ha appena eseguito. Evidentemente è proprio la sua natura ibrida e incorporea, la tendenza a non avere un carattere definito a caratterizzarlo. Se è vero che fin dalle sue origini il jazz si è frammentato in numerosi stili e correnti diverse, è facile comprendere come una singola definizione finisca con l'essere incompleta, monca, persino svilente. Genere musicale che sfugge al pentagramma tanto quanto alle definizioni, il jazz è nato in America verso la fine dell'Ottocento dall'incontro-scontro tra due colori. Il nero della pelle degli ex schiavi lavoratori delle piantagioni e il bianco dei volti e degli steccati dei loro vecchi odiati padroni. Il blues, gli spirituals e i canti di lavoro dell'orgoglio nero si sono fusi con la musica bianca europea di stampo popolare. Il contributo di quest'ultima sta nell'avere fornito al jazz una gamma di stili e forme, inni, marce, valzer, quadriglie, stilemi mutuati dalla lirica o dalla musica sinfonica, che insieme agli elementi teorici sono andati a costituire un repertorio di fondo. Il ritmo sincopato, la poliritmia degli strumenti, l'improvvisazione polifonica e specialmente quella solistica sono le sue principali caratteristiche. Quando suono, penso a quei momenti del passato e dentro di me nasce una visione. Una città, una ragazza lontana nella memoria, un vecchio senza nome incontrato in un posto che non ricordo. I suoni che escono dalla tromba di un uomo sono inevitabilmente parte di lui. Louis Armstrong, uno dei pionieri del jazz, non ne fa mistero. Il jazz non è soltanto un genere musicale, ma uno stile di vita e di pensiero, un'abitudine mentale, un'attitudine alla vita, un modo di essere. E se ami il jazz, non può essere altrimenti. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed. The way you wear your hat, Il jazz sfugge alle definizioni. È fusione di elementi diversi e spesso contrastanti, rintracciabili sia nella musica sofferta e carica di significato dei neri che in quella più spensierata e leggera dei bianchi. Un bianco e un nero, inevitabilmente, sono i protagonisti dell'incrocio di destini che stiamo per raccontarvi. Il primo ha la pelle chiara e risponde al nome di Gil Evans. Gil Evans. Gil Evans è davvero uno degli architetti della musica jazz a livello orchestrale ed è nato ben prima che questo tipo di musica venisse anche solo concepita o avesse un nome. È la giornalista Nancy Wilson a introdurre il carattere pionieristico del nostro protagonista. Gil Evans viene al mondo il 13 maggio 1912 a Toronto, in Canada. All'anagrafe viene registrato come Ian Ernest Gilmore Green, ma dal momento che il padre naturale muore poco dopo la sua nascita, Gil erediterà il cognome Evans dal nuovo marito della madre. La famiglia si trasferisce a Stockton, nell'assolata California, ed è qui che il giovanissimo Gil comincia ad appassionarsi alla musica. Gli basta poco per sognare cullato dalle note, basta giusto accendere la radio. Quelli sono i cosiddetti Roaring Twenties, gli anni ruggenti in cui l'America conosce uno splendore capace di offuscarsi soltanto a causa della tragica Grande Depressione del 29. Anni in cui nascono le nozioni di consumismo e produzione di massa. Anni in cui non solo l'industria materiale, ma anche quella culturale conosce una vitalità mai vista prima. Le automobili, che alla fine del decennio serviranno a tanti disperati per ripulire banche e fuggire in fretta e furia, ora fungono da mezzo di svago. In macchina si va al cinema, dove nel 1927 debutta il sonoro cinematografico. È con The Jazz Singer che si chiude la stagione del cinema muto e se ne apre una completamente nuova. Il titolo, oltretutto, è significativo e fa riferimento al nuovo genere musicale in voga in quel periodo. L'incredibile diffusione del grammofono e del fonografo fa sì che la popolazione americana si dimentichi gli orrori della Prima Guerra Mondiale a suon di musica. E che musica! Mentre nel 1928 Walt Disney riempie gli occhi di grandi e piccini facendo debuttare Topolino nel cortometraggio intitolato Steamboat Willie, le orecchie di tutti si sintonizzano sulle frequenze del jazz. Duke Ellington, Don Redman e Louis Armstrong diventano presenze fisse nella vita degli americani, e in particolare quella del giovane Gil, come è lui stesso a raccontarci. Non mento se dico che ho imparato la musica, ho imparato il modo in cui trattarla, da Louis Armstrong. Il primo disco che ho comprato nel 1927 si chiamava No One Else But You ed era un pezzo eseguito da Armstrong e arrangiato da Redman. Ho consumato quel disco a furia di ascoltarlo. L'adolescente Gil, nei pomeriggi in casa durante i quali dovrebbe fare i compiti per il giorno dopo, si siede al pianoforte e accende contemporaneamente la radio. È così che impara i misteri del pentagramma, premendo forsennatamente sui tasti bianchi e neri, cercando di copiare quegli stessi suoni che sente uscire dagli altoparlanti. Gli anni della high school e i primi del college trascorrono così, immersi nell'atmosfera seducente dei pezzi jazz trasmessi dalle innumerevoli stazioni radio sparse in giro per l'America. La radio era davvero un mezzo di comunicazione gigantesco negli anni 20 e 30. Tutti i giorni facevano sentire pezzi di qualche jazzista famoso di New York, Duke Ellington che suonava dal vivo, cose così. L'autodidatta casalingo ben presto si stufa di suonare da solo avendo come unici spettatori i cuscini del divano del salotto. I primi anni del college diventano così anche i primi anni del suo ingresso in una band. Le aule del Modesto College sono teatro dei suoi primissimi tentativi come musicista dinanzi a un pubblico vero, in carne ed ossa. Gil è così bravo e appassionato che la sua Gil Evans Orchestra, nei primi anni 30, furoreggia dentro e fuori dal campus. Per il ragazzo non si tratta più di un passatempo, ma di un mestiere vero e proprio. A fronte di un successo popolare e notevole, però, non si può dire ve ne sia uno commerciale altrettanto soddisfacente. Gil non si perde certo d'animo. La musica sarà il suo futuro e niente potrà fermarlo. Non gli importa se deve scendere a compromessi. Il suo talento compositivo non è buono solo per arrangiare suite orchestrali, ma anche, perché no, per imbastire il jingle di una marca di dentifricio. Lui e la sua band, grazie al suo bazzicare i territori degli studio e della pubblicità, nel 1939 vengono scritturati come orchestra fissa del celebre Bob Hope Radio Show. La passione di Gil per il jazz e la musica sinfonica orchestrale si arricchisce di nuove sfumature. Per accontentare i produttori dello show radiofonico, impara a rispondere a esigenze diverse, meno classiche, più danzerecce, esercitando la sua sensibilità compositiva. Sono anni di vera e importantissima formazione. Una palestra destinata a dare i suoi frutti anche se la situazione in America e nel resto del mondo subirà parecchi scossoni. L'industria musicale subì uno scossone e cambiò molto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche la musica cambiò. Una musica rivoluzionaria, suonata da piccole band in cui militavano personaggi come Charlie Parker o Dizzy Gillespie, stava emergendo. Si chiamava bebop e Gil Evans diventò uno dei suoi interpreti più entusiasti. E seguendo l'ispirazione di canzoni come questa che sentite in sottofondo, che Gil Evans apre i suoi orizzonti a un nuovo genere, diventando talmente bravo da farsi amici Charlie Parker e Dizzy Gillespie in persona. Gil Evans ormai si è trasferito a New York, città dove abitano e suonano i grandi musicisti della nuova leva. Vive in un modestissimo seminterrato che sta proprio dietro a una lavanderia cinese sulla 55esima West. C'è giusto lo spazio per un letto di discrete dimensioni, una grossa lampada, un pianoforte a muro e una gatta di nome Becky. Il pavimento in linoleum è tutto rotto e c'è pochissima luce in qualunque ora del giorno, essendo parzialmente sottoterra. Eppure, questo minuscolo appartamento diventa un luogo di ritrovo per musicisti, un posto dove rifugiarsi e scambiarsi le idee che rivoluzioneranno la storia del jazz. Ho lasciato la porta aperta per anni, senza chiuderla mai a chiave, lo giuro. Gil a New York vive in questa realtà folle, dove non esiste soluzione di continuità tra il lavoro e il privato, tra musica e tutto il resto. D'altronde, se sei un musicista jazz, i limiti e i confini faticano a delinearsi in maniera netta. Sassofonisti, bassisti, batteristi, trombettisti e pianisti si ritrovano per improvvisate jam session nell'angusto seminterrato sulla 55esima, convinti che il talento di Gil come arrangiatore sia proprio quello che ci vuole per ispirarli. Uno di questi talentuosi musicisti è destinato a cambiare per sempre non solo la vita di Evans, ma anche l'intera storia della musica. Una sera qualunque a casa di Gil. C'è il solito trambusto, gente che strimpella, ride, canta, fuma, parla a voce alta per farsi sentire, nonostante il suono di almeno quattro strumenti musicali diversi che suonano in contemporanea. Alcuni amici di Gil hanno portato con loro un nuovo ragazzo sui 20 anni, secco secco, con l'aria vagamente scontrosa. Si dice che sia un fenomeno con la tromba, eppure non sembrerebbe che da un corpo così esile sia in grado di uscire tutto il fiato necessario a suonare un simile strumento. Gil è incuriosito e inizia a chiacchierare con lui, scoprendo che a dispetto della figura esile, colui che gli sta di fronte è un vero e proprio gigante. Mi entravano a casa dei perfetti sconosciuti, ma poi capitavano anche persone come Miles, per esempio. Il giovane magrolino che intrattiene Gil conversando amabilmente sul futuro del jazz risponde al nome di battesimo di Miles. Un nome piuttosto comune in America, che però unito a un cognome diventa immediatamente una pietra miliare della storia del jazz e della musica in generale. Quel ragazzo non è altri che Miles Davis. Miles Davis. Dalle conversazioni tra Miles e Gil nasce un'idea decisamente originale, quella di creare un nonetto, ovvero un gruppo formato da 9 strumenti, tra i quali annoverare anche elementi non proprio ordinari come il corno francese e la tuba, entrambi strumenti a fiato appartenenti alla famiglia degli ottoni. L'idea musicale di base della Tuba Band, che prende il nome proprio dall'insolita strumentazione, è di poter lavorare con un tessuto sonoro formato da più voci, che suonino come se fossero umane. In un certo senso, è come se Davis ed Evans, a modo loro, volessero ricreare la particolare atmosfera, il chiacchiericcio, la complicità musicale e umana che ogni sera vivono nel seminterrato dietro alla lavanderia cinese sulla 55esima, dal punto di vista della composizione, del suono, degli arrangiamenti. L'obiettivo è creare una musica rilassata il cui suono si avvicini a quello delle big band del passato, senza comunque scordare i cambiamenti positivi apportati dal bebop. Superare il bebop, pur avendolo interiorizzato. Questo è quello che Gil sente di poter fare accanto a un giovane intraprendente come Miles. Evans sente oltretutto che la sua furia compositiva ha bisogno di essere sorretta dal talento di un ottimo, brillante solista. Ce ne parla uno dei massimi esperti italiani di jazz, Maurizio Franco. Stiamo parlando di una delle partnership più importanti della storia del jazz, perché in fondo Gil Evans trovò in Miles Davis quel solista intorno al quale poteva costruire una musica estremamente raffinata, una musica che lo ispirava e che dava allo stesso tempo a Davis dei quadri, dei fondali eccezionali nei quali esprimersi. L'obiettivo della Tuba Band è quello di elaborare sonorità mai udite prima sulla base di un tappeto sonoro e cromatico creato da strumenti insoliti per il jazz e normalmente in uso nelle orchestre sinfoniche classiche. Il suono che Evans vuole creare ha una connotazione ben precisa, come lui stesso a spiegarci. Il suono che ho in mente deve essere statico, fermo, sospeso, come una nuvola. Da una delle sessioni più riuscite della Tuba Band nascerà di lì a qualche tempo un disco dalle atmosfere diafane e ovattate, costruite da Evans seguendo la propria inquieta sensibilità e unite al genio puro di Miles Davis, libero di improvvisare e sbizzarrirsi a partire dalle forti idee sonore di Gil. Questo disco si intitolerà Birth of the Cool e darà formalmente il via al genere musicale più cool che ci sia. Destini incrociati. Destini incrociati assiste alla nascita di uno dei dischi che hanno cambiato la storia del jazz e più in generale la storia della musica. Si tratta di un album che scaturisce dalla collaborazione di due uomini di sicuro talento, l'arrangiatore e compositore Gil Evans e il geniale trombettista Miles Davis. Birth of the Cool significa nascita del cool, inteso sì come freddo, ma al contempo come sinonimo di stile. C'è infatti chi nel genere del cool jazz rintraccia una certa freddezza dei sentimenti e chi invece intravede proprio nella sua calma apparente l'elemento principe, ciò che lo distingue dal jazz in generale, rendendolo nettamente superiore. Difficile azzardare definizioni di una materia così eterea e sfuggente. A parlarci della sua genesi è la giornalista Nancy Wilson. La realizzazione di Birth of the Cool coinvolse non solo Evans e Davis, ma tutto il giro di amici che bazzicavano da tempo nel seminterrato di Gil. Si trattava di unire più voci per creare qualcosa di unico, un'onda sonora mai sperimentata prima. Un ensemble di strumenti e di ottimi musicisti, tutti tesi alla creazione di una nuova frontiera del jazz. Se è vero che Birth of the Cool non ha ottenuto un grosso successo commerciale, resta comunque innegabile il suo impatto nella storia della musica mondiale e sulle carriere degli attori coinvolti. A parlarcene è ancora Maurizio Franco. Io penso che il rapporto tra Gil Evans e Miles Davis sia paragonabile a quello tra Duke Ellington e Johnny Hodges o Eric Carney, no? Questi grandi compositori e arrangiatori che trovano in alcuni solisti quelli che potremmo definire i loro primo attori, un po' come i registi, no? Cinematografici o teatrali, che hanno i loro attori di riferimento. Attori e registi, esecutori e compositori diventano quasi indistinguibili. Il lavoro di Davis ed Evans, dopotutto, si fonde in un unicum perfetto. L'intesa tra i due è tale che è inevitabile che si influenzino a vicenda. Ecco, Miles Davis era l'attore di riferimento di Gil Evans e apprezzava moltissimo questo rapporto con Evans. Tra l'altro Davis disse una volta di aver imparato sulla scrittura molto e di aver capito soprattutto che non voleva scrivere, che lasciava questo compito a Gil Evans. Miles Davis, trombettista di raro talento e ispirazione, si inserisce nelle composizioni di Gil Evans con una fluidità straordinaria. Se l'apporto di Evans alla storia della musica non è ascrivibile soltanto alla categoria del jazz, ma a quella della composizione orchestrale, l'importanza di Davis, certamente, non può essere limitata al novero fra i suonatori di tromba. Musicista e personaggio controverso, Miles Davis è entrato di diritto non solo nella storia della musica, ma anche in quella del costume. Le radici musicali di Miles vanno ricercate a East St. Louis, nell'Illinois, proprio sulle rive del fiume Mississippi. Come tutte le città fluviali negli anni 20, East St. Louis è uno scalo commerciale dove convivono migliaia di lavoratori bianchi e neri, rigorosamente assoggettati alle norme della segregazione razziale. I musicisti sono soliti fermarsi negli scali fluviali seguendo le anse e le pieghe del serpentone del corso d'acqua più lungo d'America. Forse è proprio per questo incessante e vorticoso passaggio che East St. Louis ha già una grande tradizione di trombettisti. Uno dei più famosi è Clark Terry, una delle primissime fonti di ispirazione del giovane Miles. A differenza del suo idolo Clark Terry e della stragrande maggioranza degli afroamericani in quegli anni, Miles proviene dal ceto medio benestante. Non vive in un ghetto, ma in un bel quartiere residenziale e multirazziale. Suo padre può permetterselo essendo uno stimato odontoiatra. A scuola però vige la segregazione razziale ed è proprio fra quei banchi che un precocissimo Miles incontra la sua prima fidanzatina, Irene Cotton. Eravamo una bella coppia. Lui era qualcuno con cui condividevo le mie stesse idee. Una persona con una mente aperta. Non solo la mente di Miles è aperta, ma anche la sua idea di coppia, come ben presto avrà modo di sperimentare Irene. Rimasta incinta da appena 18 anni, la giovane avrà il supporto della famiglia di Miles, ma non quello del suo giovanissimo compagno. Lui è troppo impegnato a pensare alla musica, alla sua grande passione. L'amore per la musica lo eredita dalla madre, ma è suo padre che a 13 anni gli regala una tromba a farlo uscire allo scoperto. La leggenda vuole che la madre premesse per fargli studiare il violino, ma il padre, per farle un dispetto, la costrinse a vedersi crescere in casa un trombettista. E che trombettista? Miles mostra da subito un talento fuori dal comune. Il suo maestro, Elwood Buchanan, lo intuisce fin da subito e cerca di aiutarlo immediatamente a formarsi un suo stile. No al vibrato caratteristico di molti trombettisti del passato. Sì a un suono più pulito e tutto suo, che diventerà un marchio di fabbrica. Mi ricordo che ero ancora poco più che un bambino. E prima di andare a scuola c'era questo programma alla radio, si chiamava Harlem Rhythm. Lo ascoltavo sempre, durava un quarto d'ora appena. Ma un quarto d'ora mi bastava per dire a me stesso: è così che voglio suonare. Miles inizia a suonare nella band di Eddie Randall, musicista in cerca di trombettisti da aggiungere alla sua orchestra. È un'ottima palestra per Miles, e Randall è molto famoso nella zona, un ottimo trampolino per un giovane emergente. Ma non sarà grazie a Randall che avrà il suo colpo di fortuna, il merito sarà tutto della sua intraprendenza. Una sera da St. Louis passano a suonare Billy Eckstine con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, veri e propri monumenti viventi al jazz. Miles naturalmente non si lascia sfuggire l'occasione di andarli a sentire e si porta dietro anche la sua tromba nella speranza, perché no, di ottenere un ingaggio. Ed è esattamente quello che accade. Davis si presenta presto al locale e intercetta i suoi idoli quando hanno finito le prove. Si avvicina loro con la tromba in spalla ed è proprio Dizzy Gillespie in persona ad apostrofarlo con un «Ehi, sei mica iscritto al sindacato, sai com'è, ci servirebbe giusto un trombettista». È in questo modo che Miles si ritrova a suonare al fianco dei propri miti, assorbendo nozioni come una spugna. Ma l'esperienza non basta, serve anche lo studio. Per questo il giovane convince il padre a pagargli l'iscrizione alla prestigiosa Juilliard School di New York City. È proprio qui, nella Grande Mela, che Miles scopre le fascinazioni del bebop, la rivoluzione musicale del momento. Più complesso del jazz precedente a livello di melodie e ritmo, il bebop lo affascina. Miles segue le lezioni della Juilliard, ma si accorge ben presto che il loro approccio troppo accademico e bianco a suo avviso non fa per lui. Molto meglio, per farsi una cultura, perdersi nei locali fra la 42esima e la 52esima strada. È lì che suonano i jazzisti che vale la pena di ascoltare. Quando Dizzy Gillespie lascia la band in cui militava insieme a Charlie Parker, quest'ultimo si ricorda di Miles e del suo periodo di prova a St. Louis. Davis ha di nuovo la possibilità di dividere il palcoscenico con i suoi idoli. Miles era un bravo ragazzo, ma gli interessava solo ed esclusivamente la musica, non certo me o i suoi figli. Verso la fine degli anni 40, i rapporti all'interno della band di Charlie Parker iniziano a sfaldarsi. Quando la formazione si scioglie definitivamente, Miles, privo di un gruppo fisso, si ritrova a offrire la propria collaborazione a tutte le jazz band più in voga di New York. È proprio in questo magico periodo che, in un microscopico ed affollatissimo seminterrato sulla 55esima strada, fa la conoscenza di Gil Evans, talentuoso compositore e arrangiatore con cui capisce di voler collaborare al più presto. Ognuno ha il suo stile, tu prendi quello che può servirti, ma se incontri le persone giuste, giuste per te, lo capisci subito nel giro di pochi secondi. Pochi secondi per conoscersi, pochi mesi per adorarsi a vicenda e per partorire il disco che scrive una nuova pagina di storia del jazz, Birth of the Cool. Miles Davis ha poco più di 20 anni, ma grazie a questa collaborazione entra già nel firmamento delle stelle della musica. Destini incrociati. Destini incrociati sta ripercorrendo le carriere di due grandi artisti del jazz, il compositore Gil Evans e il trombettista Miles Davis. Davis, fino a questo momento, ha sempre suonato all'interno di band di successo, ma non è ancora riuscito a esprimere appieno il suo talento come solista. Evans gliene dà la possibilità. Costruisce le melodie apposta per agevolare l'espressione del grandioso talento di Davis. Questo non significa che gli arrangiamenti di Gil Evans nascessero in astratto. In realtà Davis interveniva per definire gli schemi orchestrali e anche per dare indicazioni su quale doveva essere l'atmosfera dei brani che sarebbero stati suonati. Maurizio Franco ci spiega come, a differenza di quello che spesso si crede, la partecipazione di Davis fosse attiva nel processo compositivo. Dopo la rivoluzione di Birth of the Cool, Davis ed Evans continuano a lavorare insieme, entusiasti della piega che il loro lavoro sta prendendo. L'album successivo, che suggella la loro collaborazione, si intitola ironicamente Miles Ahead. Miles Davis è miglia e miglia avanti a tutti gli altri. Siamo nel 1957. Miles Davis utilizza per quel disco per la prima volta il flicorno per tutto l'album ed è la prima volta nella storia del jazz che questo strumento viene utilizzato in maniera così estesa. E per quell'album Davis utilizza anche per la prima volta alcuni tagli, alcuni montaggi che poi diventeranno la regola nella sua produzione successiva. Innovazioni, invenzioni, deviazioni dalla norma. Tutto questo è normale per la coppiata Davis Evans. La loro voglia di collaborare e scambiarsi idee sembra non conoscere tregua. L'anno seguente i due mettono in musica l'opera di George Gershwin dal titolo Porgy and Bess, producendo un disco con lo stesso nome. Porgy and Bess è il terzo album della collaborazione Davis-Evans, ma non è l'ultimo. Nel 1960 è la volta dello splendido Sketches of Spain, concepito grazie all'influenza di musiche spagnole provenienti sia dalla tradizione popolare che dagli ambienti colti. Ce ne parla ancora Maurizio Franco. Quest'ultimo album, che è Sketch of Spain del 1960, che chiude tra l'altro un periodo nel quale Davis non solo realizza questi capolavori con Gil Evans, ma ottiene la massima popolarità. Finalmente è un musicista consacrato, un punto di riferimento della scena jazzistica americana. Quindi diciamo che è un periodo molto particolare nella sua creatività. Miles Davis ha finalmente ottenuto il suo successo al di fuori delle band in cui aveva suonato da giovanissimo, formazioni in cui i nomi di grandissimi interpreti del calibro di Charlie Parker o Dizzy Gillespie inevitabilmente offuscavano il suo. La collaborazione con Evans lo ha fatto crescere a livello sia esecutivo che compositivo. Come musicista, Miles è ufficialmente nel novero dei più grandi. Se come musicista Miles Davis è davvero all'apice, come uomo non si può dire altrettanto. Quando è che le cose hanno iniziato ad andare male? Quando Miles ha cominciato a fare uso di droghe, non sono state le altre donne a separarci, ma la droga, ne sono convinta. Miles inizia a fare uso di eroina e cocaina, un'abitudine comune fra i musicisti jazz, un vizio cui era avvezzo anche il suo mentore Charlie Parker e che nel 1959 ha portato alla morte la splendida e bravissima Billie Holiday. Chi gli sta vicino sostiene che siano state le droghe a modificargli definitivamente il carattere, lasciandogli in dote la sua leggendaria antipatia nei confronti del prossimo, qualunque prossimo. Avevo circa 19 anni, pulivo i tavoli proprio qui. E i miei soldi non erano un cazzo, ma non era il punto. Il punto era stare dove era la musica e io ci stavo. Per esempio, una notte, era il 22 luglio del 64, chi entra da quella porta? Miles Davis. Esatto. In carne e ossa. Proprio così, vi rendete conto, da quella porta è entrato l'uomo più cool del pianeta. Ecco, insomma, tornava da una registrazione alla Columbia su Vine. Miles entra da quella porta. Tempo un secondo e già sul palco a fare una jam con il gruppo. Beh, immagino che... Oh, una cosa spaventosa, era totalmente concentrato e comunque era uno che metteva soggezione, si sapeva. Tutti nel gruppo sapevano che non si doveva assolutamente parlare con Miles Davis. Quando sembrava rilassato, era tutto preso, mi spiego. Una giovane coppia alla moda gli si avvicina per stringergli la mano. Il ragazzo fa: salve, mi chiamo... E Miles gli dice: levati subito dai coglioni e portati via pure quella scema della tua troia. Il thriller Collateral di Michael Mann dipinge un ritratto non troppo lusinghiero del celebre musicista. Talentuoso ma scontroso, umorale, con un carattere difficilissimo. Forse è per colpa di quel modo di essere così impossibile e frustrante che la sua carriera procede fra alti strepitosi e bassi vertiginosi. Questi ultimi spesso coincidenti con i suoi peggiori periodi di assuefazione alle droghe. Nemmeno le sostanze stupefacenti, tuttavia, riescono a sottrargli il suo innato orecchio musicale. Io ho avuto il dono del tempo, dello stare a tempo. Ho un senso del tempo perfetto, impeccabile. Tu puoi star lì a suonare, io intanto me ne vado e faccio un giro. Quando torno so esattamente dove ricominciare. Lo sento e basta. Miles Davis e Gil Evans insieme hanno rivoluzionato la storia del jazz nell'arco di un decennio. Le loro carriere si sono poi separate. Evans ha continuato a comporre musiche per il mercato discografico e anche cinematografico, lavorando con registi del calibro di Martin Scorsese. Davis ha girato il mondo con molte band differenti, seminando il terrore tra i vari membri e scoprendo di volta in volta talenti come il pianista Herbie Hancock o il chitarrista Mike Stern. Odioso e al contempo fenomenale, Davis è stato la quintessenza del jazz. Un uomo che nella sua vita ha commesso molti errori, eppure è fermamente convinto che gli sbagli, dopo tutto, non esistano davvero. D'altronde, nel jazz, nessuna nota è mai stonata. Non suonare quello che c'è, suona quello che non c'è. Il viaggio in fondo ai tuoi occhi è illusus, mamma. Il viaggio in fondo ai tuoi occhi. Solcherò tu nel mosse. Don't cry, che poi.